questa la guerra che mi interessa, caro il mio dilettante, ma... Ma? La prossima. Se verrà la guerra, ma chi non era, se verrà la guerra, ma chi non era. Sul mare, sulla terra, ma con Dio dera, sul mare, sulla terra, chi ci salverà? Ci salverà il soldato che non la farà, ci salverà il soldato che la guerra rifiuterà. La guerra è già scoppiata, ma con Dio non dera, la guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà? Ci aiuterà il buon Dio, ma con Dio non dera, ci aiuterà il buon Dio, lui ci salverà. Buon Dio se n'è andato dove non si sa, buon Dio se n'è andato chissà quando ritornerà. L'aeroplano vola ma con Dio andrà, l'aeroplano vola ma con Dio andrà. Si getterà la bomba ma con Dio andrà, si getterà la bomba chi ci salverà. Ci salva l'aviatore che non lo farà, ci salva l'aviatore che la bomba lo getterà. Già caduta ma con Dio andrà, la bomba già caduta chi la prenderà? La prenderanno tutti ma con Dio andrà, siamo belli siamo brutti ma con Dio andrà. Siamo grandi o siamo piccini li distruggerà, siamo furbi o siamo cretini li sfulminerà. La terra è tutta nostra ma con Dio andrà, ne faremo una gran giostra ma con Dio andrà. Abbiamo tutta la terra ma con Dio andrà, giungeremo a fare la guerra ma con Dio andrà. La terra è tutta nostra ma con Dio andrà, ne faremo la gran giostra ma con Dio andrà. Abbiamo tutta la terra ma con Dio andrà, giungeremo a fare la guerra ma con Dio andrà. La terra è tutta nostra ma con Dio andrà, ne faremo la gran giostra ma con Dio andrà. Abbiamo tutta la terra ma con Dio andrà, giungeremo.